5. Ascolta e controlla. 1. Mina è in piazza. 2. Noi non siamo di Roma, siamo di Milano. 3. Siete a teatro? No, siamo al cinema. 4. Sei qui per il corso di italiano? No, sono qui per il corso di pittura.